Storiacce di Raffaella Calandra. Penso che lo Stato si debba distinguere dalla mafia anche per il modo in cui tratta gli individui e rispetta i diritti fondamentali della persona, che non sono soppressi neppure quando ci si trova di fronte al più efferato dei criminali. La mafia non è più quella. La stagione delle stragi e degli anni in cui quella Cosa Nostra dichiarò guerra allo Stato è per fortuna lontana e ora anche simbolicamente chiusa con la morte di colui che ne fu l'indiscusso e spietato capo dei capi. Ma le mafie si insinuano nelle economie, tanto al sud quanto al nord, continuano a scambiare il loro sostegno elettorale con favori da parte della politica, continuano ad essere violente e a raggiungere i loro obiettivi con la corruzione. La mafia dunque cambia pelle, si sposta insieme alla famosa linea della palma di Sciascia, ma purtroppo non è ancora morta. E allora di mafia, come diceva Paolo Borsellino, bisogna continuare a parlare, soprattutto quando si discute della successione al capo dei capi, soprattutto quando ci sono elezioni in vista o quando si lavora alla riforma del carcere. E da qui allora parte questa nuova puntata di Storiacce col ministro della Giustizia. Ci sono degli elementi che riguardano più che altro il funzionamento concreto di alcuni strumenti di cui disponiamo che possono essere migliorati. E poi soprattutto io credo che emerga il fatto che la repressione, il contrasto sul terreno penale è importante, ma non è di per sé esaustivo e sufficiente. Lo dicono tutti gli esperti, lo hanno ripetuto i magistrati anche nel forum sulla giustizia qui da noi alla Sole 24 Ore per i 10 anni di Storiacce. Quella italiana è senza dubbio la migliore normativa esistente al mondo contro le mafie, che però cambiano nel tempo, si spostano nello spazio, cambiano pelle e inseguono obiettivi differenti. Da qui la necessità di un continuo aggiornamento di quella stessa norma, soprattutto quando gli equilibri all'interno delle organizzazioni criminali cambiano, come ora dentro Cosa Nostra con la morte di Totò Riina, soprattutto quando ci sono elezioni in vista e ancor di più dopo le polemiche su Ostia aumentano le voci di quanti rivendicano la necessità di un patto tra partiti per dire con fermezza no grazie al voto dei mafiosi. Sembrerebbe scontato, ma invece purtroppo non lo è, dice con Storiacce il guardasigilli Andrea Orlando, che sollecita l'approvazione di una legge sulle lobby e coordina a Milano gli stati generali della lotta alle mafie. E in questa intervista con Storiacce parla di Riina, di boss che tornano in libertà e di quelli che provano a far uscire messaggi dal carcere. Noi abbiamo una normativa che può essere assolutamente portata come riferimento anche agli altri paesi europei e anche a livello globale. Ci sono degli elementi che riguardano più che altro il funzionamento concreto di alcuni strumenti di cui disponiamo che possono essere migliorati. E poi soprattutto io credo che emerga il fatto che la repressione, il contrasto sul terreno penale è importante, ma non è di per sé esaustivo e sufficiente. Altrimenti, diciamo, forse non staremmo ancora a parlarne dopo tanti decenni se fosse soltanto un tema di polizia. Ecco, tra gli strumenti da migliorare, quali potrebbero essere ancora? Ma uno sicuramente è quello della cooperazione giudiziaria con gli altri paesi, cosa che abbiamo, per quanto ci riguarda, implementato fortemente, ma naturalmente, lo dice il termine spesso, la cooperazione è il frutto anche della disponibilità degli altri e non sempre gli altri paesi sono consapevoli del rischio che si corre a non condividere informazioni. E vale questo tema per la mafia così come vale per il terrorismo. Noi ci siamo battuti anche per la costituzione di una procura a livello europeo che sulla base dei trattati di Lisbona potrebbe occuparsi già oggi, perché la procura nel frattempo è partita, di terrorismo e di criminalità organizzata. Sarebbe un bel salto di qualità per contrastare un fenomeno che ormai è sempre più transnazionale e che non guarda ai confini e alle competenze dei singoli stati, ma si muove come un soggetto che è in grado di spostare capitali, persone e armi da una parte all'altra del globo. Ecco, ministro, per chiudere questa parte, diciamo, più normativa, restano però anche le perplessità che lei conosce bene, sollevate sia da alcuni magistrati che da alcuni avvocati su un punto del codice antimafia appena approvato. Sì, però quelle perplessità non riguardano il contrasto alla mafia, no, certo. Riguardano la adeguatezza di una norma che prevede la possibilità della confisca e del sequestro per beni realizzati attraverso l'attività corruttiva. Quindi semmai l'appunto è se quella norma è adeguata a contrastare la corruzione oppure no. Anche se appunto molto spesso la corruzione viene considerata appunto uno dei reati spia, diciamo, anche di un contesto mafioso. Ma parlando strettamente appunto di vicende di mafia, di una mafia tradizionale come quella a cui era legato il nome di Totò Riina, la sua morte ha fatto di sicuro aprire due fronti: da una parte la questione della sua successione, dall'altra ha riacceso l'attenzione sulle inchieste che sono ormai in corso da anni per catturare l'ultimo super latitante, Matteo Messina Denaro. Probabilmente non sarà lui l'erede di Riina, però di sicuro la cattura del super boss ridarebbe slancio, possiamo dire così, alle energie positive e forse anche a una parte dell'immagine del nostro paese, che a volte ha anche pagato il prezzo, tra l'altro, delle divisioni degli stessi apparati. Le piacerebbe chiudere la legislatura con una cattura di questo tipo? Certo che sì, assolutamente sì, però non appenderei neanche a questa cattura il destino dell'attività di contrasto alla criminalità organizzata. Voglio dire che mentre si cerca Messina Denaro non è che si sta con le mani in mano. La nostra magistratura è intervenuta in molte realtà, ha sgominato cosche, ha sgominato organizzazioni che da tempo insistevano su alcuni territori, e ha portato molti colpi alla struttura mafiosa di Cosa Nostra e ha saputo contrastare anche altre mafie come la Camorra, la 'Ndrangheta. Quindi capisco la valenza simbolica, ma lo Stato non è stato fermo, e soprattutto sul fronte proprio dell'aggressione patrimoniale abbiamo realizzato degli obiettivi importantissimi. Insomma, sono miliardi e miliardi di euro complessivamente è il valore dei beni che sono stati sequestrati e poi confiscati alle mafie. Quindi mentre si cerca di far meglio e ci si danno degli obiettivi specifici come questo, bisogna però anche riconoscere il grande lavoro che è stato fatto in questi anni. A volte, appunto, come lei già diceva, ci sono anche degli elementi simbolici nella lotta alle mafie, come quelle dell'arresto e della cattura dei latitanti più celebri, e tra questi di sicuro il primo è Matteo Messina Denaro. Però a proposito della successione al vertice di Cosa Nostra, in tanti ora, sia dai magistrati ma anche dalla presidente della commissione antimafia, che l'aveva detto proprio a Storiacce tra l'altro, pongono l'attenzione sui boss usciti nell'ultimo anno dal carcere, per quanto potrà succedere ora nella ricerca dei nuovi equilibri, mentre per quelli che sono ancora in cella sono i sindacati di polizia penitenziaria a lanciare l'allarme sul rischio dell'uscita di messaggi anche dal carcere duro, perché in questo momento col tema della successione che si riapre, dei nuovi equilibri all'interno di Cosa Nostra, diventa una questione ancora più importante, come ben sa. Ha mandato qualche circolare per rafforzare ulteriormente l'attenzione. Chiaramente è una questione che si ricollega anche a tutte le polemiche sul 41 bis. Sulla prima questione è un tema reale che mi è stato posto anche dalla magistratura palermitana, cioè il fatto che comunque dopo aver scontato la pena alcuni importanti capi di caratura criminale molto elevata si ritrovano sul territorio. Bisognerà vedere se hanno mantenuto ancora, diciamo, quella forza che avevano quando sono andati in carcere, però è anche vero che non c'è nessuno strumento che ci consenta, se non quello dell'attività di prevenzione, di controllo sul territorio, che ci consenta in qualche modo di privare della libertà una persona che ha espiato la sua pena. Semmai c'è da chiedersi se le pene sono adeguate. Noi in alcuni casi siamo intervenuti per aumentarle, quindi è un tema reale ma che non si può risolvere con un provvedimento specifico. Bisogna utilizzare tutti gli strumenti di cui disponiamo, quindi l'attività delle forze di polizia, la magistratura in funzione di attività di prevenzione e quant'altro prevede il nostro ordinamento. Sulla seconda questione devo dire che stiamo parlando di una cosa assurda, perché o il 41 bis non funziona e allora va denunciato quando non funziona, ma non è che rischia di funzionare meno dopo la morte di Totò Riina, cioè nel senso che noi non abbiamo elementi per dire che il 41 bis sia diventato più permeabile rispetto al passato. È uno strumento che sta funzionando, è uno strumento che ha consentito di isolare i boss all'interno del carcere. Dobbiamo semplicemente mantenerlo, cioè evitare che in qualche modo ai cambiamenti della mafia e della tecnologia si indebolisca, però mantenere quell'impianto. Non abbiamo specifiche misure da assumere in ragione di un fatto. Tra l'altro nessuna indagine mette in evidenza questa eventualità che è stata denunciata tra l'altro soltanto da una sigla sindacale, anche se ho visto che si è aperto un dibattito molto ampio su questo tema. Al momento noi non abbiamo nessun elemento per poter dire che ci sia una fondatezza rispetto a questa denuncia. Una possibilità dovuta al contesto particolare di Cosa Nostra. Il 41 bis è pensato, studiato e gestito in modo tale da evitare, come dire, che anche situazioni di stress lo possano mettere in discussione, quindi noi non abbiamo nessuna segnalazione del fatto che il 41 bis in qualche modo sia diventato meno efficace rispetto al passato, né che vada in crisi sulla base di eventi di carattere straordinario. E poi chiudo la questione Rina, nessun dubbio da parte sua nel fermare quel permesso speciale che consentiva ai familiari di raggiungerlo poco prima della morte? Assolutamente no. Penso che lo Stato si debba distinguere dalla mafia anche per il modo in cui tratta gli individui e rispetta i diritti fondamentali della persona, che non sono soppressi neppure quando ci si trova di fronte al più efferato dei criminali. Rina è stato condannato al carcere, gli è stato applicato il carcere duro, perché vorrei ricordare che il carcere duro non è frutto di una sentenza, il carcere duro è un frutto di un provvedimento amministrativo che il ministro della giustizia firma. Quindi, ma detto questo, nel momento in cui ci si avvicina al momento della morte, credo che l'elemento dell'umana pietà debba caratterizzare anche l'azione dello Stato democratico, non solo perché è giusto, ma anche per distinguersi appunto da chi pietà non l'ha avuta nel corso di tutta la sua esistenza. E dal carcere ripartiamo nella seconda parte di Storiacce, perché questa potrebbe essere forse la più importante riforma in tema di giustizia attesa in questo scorcio di legislatura. Storiacce. La riforma del carcere è in dirittura d'arrivo, la necessità di un patto tra partiti per tenere fuori dalle prossime elezioni il voto dei mafiosi, gli strumenti da aggiornare costantemente nella lotta alle mafie. In chiusura di legislatura il ministro della giustizia Andrea Orlando fa nuovamente il punto con Storiacce sull'attività in corso, sulla legge sulle lobby che vorrebbe far approvare, ma parla anche di un altro tema su cui la politica si interroga, l'attesa pronuncia della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo sulla candidabilità di Silvio Berlusconi. Dopo quella sulle intercettazioni, tentata da molti suoi predecessori, il guardasigilli conta di riuscire a chiudere anche un'altra importante riforma provata da molti prima di lui, ma rimasta sempre lettera morta. Perché, diciamolo chiaramente, quando si parla di carcere, il prezzo politico da pagare spesso è molto alto, soprattutto in campagne elettorali sempre più concentrate sulla sicurezza. Stavolta la riforma sembra vicina e il ministro Orlando, parlando con Storiacce, prevede di avere l'approvazione definitiva entro l'anno. La prima tranche dei provvedimenti è già alla Presidenza del Consiglio, quindi compete al Presidente del Consiglio definire l'ordine del giorno. No, io non credo che si debba temere in termini di consenso, perché penso che si debba e si può spiegare all'opinione pubblica che un carcere che funziona male è un carcere che genera insicurezza, dove aumenta la recidiva e dove alla fine i soldi spesi dai contribuenti rischiano di alimentare più la spirale criminale che non un percorso di rieducazione e di reinserimento. Naturalmente ci vuole anche una capacità di riconoscere quando c'è un ravvedimento, quando c'è una capacità di rimettersi in gioco e quando non c'è. E questo è l'impianto che abbiamo cercato di dare alla riforma, quindi nessun elemento di cancellazione della responsabilità, ma viceversa una più forte definizione delle responsabilità del detenuto, ma anche di chi deve valutare il suo comportamento. E io credo che sia un elemento di civiltà che viene ad essere conquistato, ma è anche un elemento a tutela di una comunità che deve essere sicura, e per questo deve poter esigere un carcere che funziona meglio. Lei però è fiducioso che comunque entro fine dell'anno dovrebbe essere tutto fatto? Sì, penso che ci siano assolutamente tutti i termini perché questo avvenga, e penso che sia anche un modo di affrontare in modo strutturale una questione che più volte abbiamo dovuto affrontare in passato, che è quello del rischio di condanne del nostro paese da parte della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. A proposito di prezzo politico, Ministro, si avvicinano le elezioni, come ben sa. Il Ministro dell'Interno, il suo collega Marco Minniti, ha lanciato una proposta di patto di civiltà, l'ha definita così, per un rifiuto esplicito da parte dei partiti a ricevere il voto delle mafie. Questo passa innanzitutto dai candidati, però non ci sono già i filtri per evitare appunto questo scambio, verrebbe da dire. Come secondo lei andrebbe evitato questo scambio tra mafia e partiti? Beh, intanto devo dire che la proposta di Minniti riprende altre proposte che sono state fatte anche in passato, e anche io qualche tempo fa avevo posto questo tema, che è un invito di carattere politico ad assumere un orientamento chiaro, esplicito, che forse ha più valenza morale che dal punto di vista giuridico, però è che può avere una grande importanza. Cioè, se tutti i soggetti della politica e della società dicono con chiarezza: con questi signori non vogliamo avere niente a che fare, io credo che si possano ridurre gli spazi e si può far emergere anche con più evidenza la responsabilità di chi invece non si attiene a questa condotta. Dopodiché credo che noi un segnale chiaro dal punto di vista normativo lo abbiamo dato quando abbiamo pressoché raddoppiato la pena per il reato di scambio, di voto di scambio politico mafioso. E penso che, io non sono mai in generale convinto del fatto che l'aumento di pena possa avere di per sé una deterrenza, però in questo caso aveva una valenza anche di carattere simbolico. In sostanza, chi si candida a svolgere funzioni di rappresentanza dei cittadini e poi costruisce il suo consenso in questo modo tradisce la fiducia dei cittadini e inquina il circuito democratico. In questo senso credo che ci voglia molta nettezza, e noi con quella modifica normativa l'abbiamo interpretata. Questa appunto che era contenuta nel codice antimafia, ma a proposito dell'appello verrebbe da dire però che dovrebbe essere quasi normale che da parte dei partiti ci fosse un segnale chiaro ed esplicito nel dire: noi con questa gente non vogliamo avere niente a che fare, e invece a quanto pare serve ancora ribadirlo. Ma serve sempre ribadirlo, perché non è solo un problema che riguarda i partiti, anche se i partiti naturalmente hanno una responsabilità maggiore perché si candidano a svolgere una funzione di dirigenza generale del paese. Il tema vale per le associazioni di impresa, vale per le imprese, vale per le organizzazioni, per le associazioni di altra natura, vale insomma per la società nel suo complesso. Sono come i confini di un campo di calcio tracciati con il gesso, insomma, non vale sempre la pena rimettere e ritracciare quei confini, perché il tempo, anche la disattenzione, la convenienza, l'opportunismo possono in qualche modo cancellare quei segni, mentre invece io credo che noi abbiamo il compito di ribadirli ogni volta. E immagino che questo valga soprattutto in quelle zone dove, riprendo delle sue parole, le mafie rischiano di svolgere ancora un ruolo anche sociale in un certo senso. Secondo lei questo può essere anche un fattore che può aver avuto un'influenza nella bassissima affluenza del voto di Ostia e anche sull'esito delle elezioni? Beh, certo che quando c'è un fenomeno di inquinamento mafioso si delegittima complessivamente l'istituzione che è coinvolta, quindi è chiaro che in questa dinamica può incidere negativamente anche nella partecipazione al voto. Però io non mi limiterei a vedere soltanto le realtà nelle quali in qualche modo è conclamato che questo ruolo può essere svolto. Ora noi Ostia lo sappiamo con ritardo, ma lo sappiamo anche da inchieste, dalla vicenda Mafia Capitale, insomma sappiamo che c'è un humus di questo tipo, ma ci sono realtà nelle quali in qualche modo non c'è questo sospetto. Ricordo che ci sono comuni del nord Italia, del Piemonte e della Liguria, che sono, almeno secondo l'accusa, sono stati soggetti di veri e propri patti politici elettorali tra candidati e organizzazioni mafiose. Quindi come dire, la vigilanza è d'obbligo in ogni regione, in ogni realtà, perché tanto più in una fase in cui la politica è poco partecipata e tanto più in una fase in cui la politica è frammentata, 100, 200, 300, 400 voti possono fare la differenza. Non è che la mafia elegge di per sé un sindaco, non è che la mafia di per sé elegge un consigliere regionale, però la mafia può essere quella che fa la differenza in tutte le realtà, tra un consigliere comunale e l'altro, tra un candidato sindaco e l'altro. Per questo io dico, capisco l'atteggiamento di chi in qualche modo dopo una vicenda come quella di Ostia se ne sta a casa, e però dico anche che è una reazione sbagliata, perché se tutti stanno a casa alla fine i voti dei mafiosi rischiano di essere più pesanti di quanto non lo sarebbero se ci fosse una partecipazione popolare più ampia. E a proposito di infiltrazioni, lei giustamente ricordava il nord, ci sono anche comuni già sciolti appunto per infiltrazioni mafiose al nord, in Liguria, in Piemonte. Ecco Ministro, chiudo con una domanda diciamo d'altro tipo. La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo discute a Strasburgo sul ricorso di Silvio Berlusconi e sulla sua decadenza in virtù della legge Severino. Ancora una volta la politica italiana sembra dover aspettare una pronuncia che riguarda l'ex premier. Sì, però in questo caso si tratta di un fatto fisiologico. Qualunque cittadino italiano può ricorrere alla Corte di Strasburgo quando ritiene ci sia una violazione dei diritti contenuti nella Carta. Quindi in questo caso c'è anche un impatto sulla politica, ma è un diritto che è riconosciuto ad ogni cittadino e consente alla Corte anche di formulare delle valutazioni sulle leggi che i singoli stati hanno assunto. Quindi non lo metterei sul piano di altre vicende di carattere giudiziario che in qualche modo hanno intrecciato la vicenda del paese. Questa è una storia a sé, una storia specifica che ha una sua propria autonomia. La Corte va rispettata nella sua autonomia e non deve essere messa sotto nessun tipo di pressione. E voi cosa pensate della riforma del carcere o del permesso ancora firmato dal ministro per i familiari di Riina perché raggiungessero il capo dei capi prima della morte? Se vi va, scriveteci sulla pagina Facebook di Storiacce. Su Twitter invece ti trovate all'account Raf Calandra. Per riascoltare questa, come tutte le altre puntate, il sito è radio24.it. Ciao a tutti, da Raffaella Calandra.